Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo martedì 11 febbraio. La cronaca politica ci riporta ancora questo braccio di ferro di Renzi contro tutti che fa rischiare il governo Conte e ci parla di una pagina internazionale ancora dominata dal problema del coronavirus. Ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Bullets, martedì 11 febbraio 2020. Titoli di oggi. Coronavirus, ultime notizie dall'Europa, mentre una nave da crociera è ferma a Yokohama e un'altra sta tornando verso la Florida. Elezioni in Azerbaigian, possibili frodi. Donald Trump vola in India. Israele e Palestina, oggi Mahmoud Abbas al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Iraq, attentato contro un convoglio di mezzi che trasportavano dotazioni per il contingente americano. E infine tensione al confine tra Brasile e Venezuela. Questo è il notiziario quotidiano di Radio Bullets e io sono Angela Gennaro, insieme a Yulia Kalashnik, oggi in collegamento da Kiev, Ucraina. Coronavirus in Europa. La sindaca di Bucarest, la socialdemocratica Gabriela Firea, ha fatto sapere di avere messo a disposizione in città un centinaio di posti per la quarantena delle persone sospettate di aver contratto il virus. I cittadini rientrati dalla Cina, anche qui, come è successo per esempio in Italia, sono stati messi in quarantena. Due persone nella capitale e quattro in queste ore a Galati, nel sud-est del paese, dove altre nove persone erano già state ricoverate. E nessun cittadino serbo ha contratto il coronavirus, invece, dice dalla Serbia appunto il ministro degli esteri, Ivica Dačić, parlando in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo italiano, Luigi Di Maio. Due cittadini serbi restano a Wuhan, in Cina, epicentro del virus, e lo fanno per loro scelta, dice il ministro, mentre i serbi che sono stati evacuati con un aereo militare francese sono in quarantena appunto in Francia. Nessuno ha contratto il virus e domenica scade la quarantena, dice Dačić. La Diamond Princess, nave da crociera britannica, è ferma al porto di Yokohama con circa 3.700 persone a bordo provenienti da tutto il mondo e 66 confermati casi fino a questo momento di coronavirus. Ma c'è un'altra nave, sempre della Princess Cruises, la Caribbean Princess, che sta tornando invece in queste ore verso la terraferma a causa dell'emergenza coronavirus e per ragioni prudenziali. La nave infatti ha interrotto il suo viaggio, 14 giorni di crociera, c'era nei Caraibi, perché alcuni ospiti a bordo, dice una nota della compagnia, hanno segnalato sintomi coerenti con lievi casi di malore gastrointestinale. Queste persone vengono trattate dal team medico di bordo e non ci sono casi di coronavirus identificati tra gli ospiti o tra l'equipaggio, dice ancora l'azienda. La nave con 4.196 ospiti e l'equipaggio sta ora tornando al porto di Everglades a Fort Lauderdale in Florida e l'arrivo è previsto giovedì 13 febbraio. Stai ascoltando Radio Bullets. In Azerbaigian si parla di possibili frodi nelle elezioni parlamentari anticipate. Ci racconta tutto la nostra Yulia Kalashnik in collegamento da Kiev. Domenica 9 febbraio, il partito governativo del nuovo Azerbaigian ha vinto le elezioni parlamentari anticipate. Il partito in questione è quello di Ilham Aliyev, che sta al potere oramai da 17 anni. Secondo i scrutini preliminari, i candidati del partito al governo possono ottenere fino a 65 seggi su 125. È l'unico candidato dell'opposizione che dovrebbe entrare nel prossimo Parlamento, è Erkin Gadirli del Partito Repubblicano Alternativo. Secondo l'opposizione, i risultati delle elezioni sono stati falsificati. Anche l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, lunedì 10 febbraio, in un report ha denunciato numerose violazioni procedurali riscontrate durante il conteggio dei voti, sollevando così una serie di dubbi sulla trasparenza delle elezioni parlamentari nel paese. Il leader del Partito Repubblicano Alternativo, Ilgar Mammadov, ha denunciato la frode elettorale nel suo paese e ha invitato i propri seguaci a organizzare una manifestazione di protesta il 16 febbraio. Il presidente americano Donald Trump sarà in visita in India il 24 e il 25 febbraio prossimo. Secondo quanto riporta la Casa Bianca, verrà accompagnato dalla First Lady, Melania, e si recherà nella capitale, Nuova Delhi, e ad Ahmedabad, che si trova nello stato del Gujarat, di cui è originario il primo ministro indiano Narendra Modi, e che, dice ancora la Casa Bianca, ha rivestito un ruolo importante nella vita del Mahatma Gandhi e nella storia in generale del movimento indiano per l'indipendenza. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Spostiamoci ora nel Corno d'Africa, dove è sempre più grave l'invasione delle locuste. Secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite, la migrazione di questi insetti, partendo dallo Yemen e con diffusione nell'Africa orientale, avrebbe raggiunto la dimensione di 100, addirittura 200 miliardi di esemplari nel mese scorso. Ora la crisi si concentrerebbe in tre paesi, Somalia, Etiopia e Kenya, zone in cui ci sono 13 milioni di persone in una situazione di insicurezza alimentare acuta e di cui 10 milioni nei luoghi colpiti proprio dalle locuste, dagli insetti, dice il capo degli affari umanitari dell'ONU, Mark Lowcock. L'evento non è particolarmente diffuso nel Corno d'Africa, nella zona, e in alcune aree si tratterebbe addirittura della peggiore invasione di questi insetti in 70 anni. E la situazione umanitaria potrebbe peggiorare perché le persone in condizione di insicurezza alimentare sono 20 milioni. Dominique Bourgeon, direttore per le emergenze della FAO, spiega che si tratta di un altro effetto della crisi climatica e che è stato lanciato anche un appello alla comunità internazionale per raggiungere la cifra di 76 milioni di dollari. Per il momento ne sono stati raccolti solo 21, mentre gli sciami di insetti si stanno spostando verso la Tanzania e l'Uganda. Potrebbero arrivare sul nord dell'Africa entro l'estate e verso il sud-est asiatico a causa delle correnti dei monsoni. Riscaldamento climatico perché? Perché il riscaldamento dell'Oceano Indiano potrebbe provocare più cicloni che rischiano di arrivare al largo dell'Africa orientale, aumentando così la probabilità di ulteriori focolai di locuste. Stai ascoltando Radio Bullets. Un attentato dinamitardo sarebbe stato compiuto nelle ultime ore in Iraq contro un convoglio di mezzi che trasportavano dotazioni per il contingente americano, secondo quanto riporta la TV panaraba Al-Mayadeen, vicino all'Iran e agli Hezbollah del Libano. La TV cita fonti di sicurezza irachene. L'attacco sarebbe avvenuto nella località di Adwaimia, a sud di Baghdad, e non ci sarebbero né vittime né rivendicazioni. Israele e Palestina. Il controverso accordo del secolo annunciato dal presidente americano Donald Trump per portare finalmente la pace tra Israele e Palestina, rigettato dai palestinesi e appoggiato in pieno dagli israeliani, in questi giorni sia il consigliere di Trump, Jared Kushner, sia l'ambasciatore americano David Friedman avevano ammonito Israele a non compiere azioni unilaterali sulla scia del piano presentato appunto dal presidente americano, azioni unilaterali come poteva essere l'annessione della Valle del Giordano. Il premier israeliano Netanyahu ha fatto sapere che l'estensione della sovranità israeliana agli insediamenti ebraici in Cisgiordania e alla Valle del Giordano sarà, virgolette, fatta in accordo con gli USA e quindi non in maniera unilaterale. Il riconoscimento di questa sovranità da parte americana, ha aggiunto Netanyahu, avverrà al termine del lavoro di mappatura delle zone che sta procedendo. Nel piano di Trump si parla appunto di una mappatura delle zone in questione che deve essere fatta da un comitato congiunto USA-Israele. Di certo per Netanyahu le annessioni non dipendono dall'approvazione dei palestinesi, ancora una sua citazione, palestinesi che sono, lo ricordiamo, fortemente contrari al piano di pace. Intanto i palestinesi, secondo quanto riportano fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, hanno ritirato la richiesta di votare in Consiglio di Sicurezza ONU la bozza di risoluzione di condanna del piano di pace annunciato da Donald Trump per il Medio Oriente. Il testo preparato dai palestinesi con Tunisia e con Indonesia doveva essere votato oggi, e oggi è anche il giorno in cui il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas è attivo atteso in Consiglio di sicurezza. Il ritiro sarebbe stato deciso per continuare le consultazioni sul testo, sulla risoluzione, dopo che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno proposto degli emendamenti. Il discorso di oggi di Mahmoud Abbas sarà il punto di riferimento per ogni processo di pace, dice Maidi Al-Khalidi, consigliere diplomatico del presidente palestinese. Abu Mazen chiederà il sostegno internazionale contro il piano di pace di Trump. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Tensione a Pasaraima, città brasiliana sulla frontiera con il Venezuela. Da qualche giorno i residenti manifestano contro la gestione dell'arrivo di migranti venezuelani in fuga da crisi sociale ed economica nel proprio paese. E la protesta di piazza si è acuita dopo lo stupro di una ragazza locale, stupro che è stato attribuito a un venezuelano. Gli indigeni si sono uniti agli altri manifestanti che protestavano da 3 giorni perché denunciano che la città sta vivendo un momento molto difficile, con un aumento della violenza, mentre il governo federale sembra indifferente, dice Giuliano Torquato, sindaco della località. E anche per oggi con il notiziario di Radio Bullets è tutto. Non perdetevi le nostre rubriche, tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. Io vi do appuntamento la prossima settimana e vi ricordo come sempre che potete partecipare al nostro progetto di giornalismo indipendente andando su radiobullets.com/sostienici. Buona giornata. Economiche ci parlano di un futuro ben poco ottimistico per l'Italia, ma anche il presente ha già i suoi bei problemi, come ci racconta la Fion dell'Emilia Romagna, che interviene sulla situazione dell'ex Breda Menarini Bus, ora Industria Italiana Autobus, per chiedere alla proprietà maggiore chiarezza sul piano industriale. In particolare, gli investimenti promessi sullo stabilimento bolognese non si vedono e la produzione degli autobus viene effettuata soprattutto in Turchia o nello stabilimento di Avellino. Allora sentiamo le parole della sindacalista Sandra Ognibene. Ci sarebbe questa necessità di discutere appunto di che tipo di prodotto la Next Breda Menarini è in grado di offrire alle aziende appunto della regione in questo, e anche non solo alla regione. Noi abbiamo sempre detto che questa è l'unica azienda che in Italia produce autobus, quindi come dire, un bene di carattere pubblico e un bene che ne usufruiscono i cittadini a partire da quelli che sono sicuramente più deboli, no? Penso agli studenti, penso agli anziani piuttosto che alla mobilità privata. Quindi noi vogliamo rimettere al centro, e quando rimettiamo al centro questa discussione vogliamo anche avere una tempistica, insomma qualcosa che faccia, come dire, intravedere appunto il raggiungimento di questo obiettivo. Oggi purtroppo non abbiamo questa certezza, nel senso che l'azienda ci ha detto che sta interloquendo con l'università, però noi abbiamo bisogno di capire se questo colloqui che l'azienda fa con l'università sono consolidati rispetto a un prodotto. L'altro ragionamento che noi vogliamo in qualche modo anche cercare di fare è con Leonardo stessa. Leonardo non solo ha una quota importante nell'assetto societario, ma è anche proprietario, come sapete, dell'area. Quindi, siccome sappiamo che l'area non sarà tutta utilizzata per la produzione di autobus, probabilmente Leonardo ha, come dire, immagino che abbia, come dire, delle idee su cosa fare della restante area. E quindi anche su questo abbiamo bisogno di capire meglio insieme a Leonardo cosa hanno intenzione, insomma, di fare nel futuro proprio su quell'area. In più lo stabilimento avrebbe bisogno di investimenti proprio sullo stabilimento stesso, perché ancora lacune sull'organizzazione del lavoro, sul flusso del processo industriale, c'è ancora una situazione, diciamo, lacunosa. Quindi è bene provare di fare un tavolo dove ci siano tutti i soggetti della quota dell'assetto societario. Per quello che riguarda Bologna, noi abbiamo bisogno di rimettere insieme istituzioni, impresa, parti sociali, chiaramente, per discutere e dare i tempi rispetto al concretizzare quello che nel piano industriale ci era stato illustrato, lo stabilimento di ricerca e sviluppo e di produzione di autobus anche innovativi, insomma. Le intenzioni sono di assunzione, poi la nostra domanda quanti, dove, come, è ancora, diciamo, non troviamo una risposta precisa. Quindi adesso noi facciamo fatica, possiamo dire con tranquillità che l'azienda l'ultima volta ci ha detto appunto che gli enti dove pensava di fare assunzioni, di potenziare l'occupazione, era proprio l'ente della progettazione e sulla produzione. Però la produzione è in una situazione, diciamo, ancora di confusione, come dicevo prima, di organizzazione aziendale. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi il materiale c'è, per farvi un esempio, no? Voi sapete che più volte noi abbiamo denunciato che c'era il problema della fornitura. Oggi il materiale c'è, però fa fatica questo materiale ad avere il flusso per arrivare in produzione direttamente, che sia, come dire, efficiente per i lavoratori poterlo utilizzare nel layout nel processo lavorativo, cioè l'azienda non è efficiente dal punto di vista del flusso industriale del processo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Think of your future. Time you spend. Sì, una strana espressione nei tuoi occhi vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Com'è strana stasera la tua voce, mi sta dicendo che non ho più il tuo amore. Mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più. Mi fa capire che io ti perderò. Così semplicemente la fiamma è spenta, il nostro amore non vive più. E nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire. Non dirò, già lo so che tu mi lascerai. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Minuti di questo 11 febbraio, martedì. Buongiorno a tutti voi che state ascoltando la nostra rassegna stampa, che evidentemente dirige convintamente la campagna per la libertà di Zaki e fare più rumore possibile su questo caso per impedire che rimanga chiuso nelle celle, nelle torture dell'Egitto. E allora apriamo subito con questo Corriere di Bologna, il grido di Zaki: non lasciatemi solo. Il messaggio alla famiglia dello studente universitario arrestato al Cairo ci muove anche l'Unione Europea. Il ragazzo ha chiesto di poter avere i suoi libri per studiare in carcere. Continuate a supportarmi, così mi proteggete. Questo è Carino Bologna, ma anche il Corriere Nazionale. L'appello di Zaki: battetevi per me. Cercatore detenuto in Egitto, alla sorella: non lasciatemi solo in cella, appunto, ha chiesto i suoi libri. E all'altra manifestazione dei compagni di studi, molto seguito sul social, è tenuto d'occhio. Infatti anche il Carlino e Corriere Bologna un'altra volta si parla dei studenti in piazza, una mobilitazione al giorno per Patrick, mentre si apre un profilo social Free Patrick, si chiudono i suoi profili social per impedire che gli aguzzini del Cairo possano da lì prendere le loro accuse, che vengono precisate dalla TV Cairote. Capiamo di cosa è colpevole Zaki. E al Cairo l'accusa viene rilanciata in TV: difende i gay perché vuole il caos. Francesco Battistini riporta questo intervento nell'ora di punta della TV Cairota. Ma questo qui è come Hossein Mashka al-Bagar. All'ora del massimo ascolto, un anchorman incravattato va su Ten TV e mostra a tutto lo schermo e a tutto l'Egitto un post pubblicato mesi fa da Patrick Yorzaki. Altro che opposizione politica dal Sisi, altro che Regeni. Stasera spiegherà lui per bene che cosa c'è dietro l'arresto del ricercatore egiziano atterrato dall'Università di Bologna. Questa è la stessa storia di Bagat, tuona Nashrat al-Deri, svolto delle 8 di sera, dove si cita il caso di un attivista per i diritti umani, Hossam Bagat, licenziato ai tempi di Mubarak per aver difeso i 52 clienti di un barcone sul Nilo che serviva da nightclub gay, il Queen Bot, quindi arrestato sotto al-Sisi con le stesse accuse che ora vengono rivolte a Zaki, per prima la diffusione di notizie false che attentano alla sicurezza nazionale. Questo Zaki lavora con Bagat, spiega Alderi l'Ankorman. Ricordate quel Bagat che difende la perversione sessuale? Questo ragazzo viene dall'Italia che ora sta provando a promuovere. Volete voi che l'Egitto precipiti nel caos come chiedono questo ragazzo e Bagat? Volete voi un paese pieno di caos, di prostituzione e di perversione sessuale? Bagat se ne esce a chiedere che dove sia finito Patrick George, ma vadano all'inferno lui e Patrick. Questo è l'inferno, ahimè ci sono. Proseguiamo con La Stampa, pagina 10, primo piano diritti umani, l'avvocata di Zaki, torture e abusi, lo stanno piegando. L'ONG dove lavorava lo studente egiziano dichiara, senza l'Italia sarebbe un caso di sparizione forzata, ricordiamo i desaparecido. Il 22 febbraio scadrà il fermo, ma si teme un prolungamento. L'allarme rischia l'ergastolo nell'Egitto assopito dalle pressioni che il governo Al-Sisi, una dittatura vera e propria militare, esercita sui media. La storia del giovane non fa notizia, vuol dire che ce ne sono tanti. Patrick non è la persona sorridente di sempre, è prostrato e sotto shock, e lo credo bene. Bisogna continuare a far pressione, non vogliamo un'altra vicenda Regeni. Le tappe dalla scomparsa all'arresto, da giovedì 6 febbraio fino ad arrivare al fermo di polizia, viene ufficializzato l'arresto per 15 giorni in carcere. Zaki sarebbe stato interrogato e torturato per ore, anche con l'uso dell'elettroshock, minacciato, a rischio anche dell'ergastolo. Siamo a Bologna, appelli, petizioni, manifestazioni, la mobilitazione del suo Ateneo. Bologna non tace invece come Cambridge. In passato ci siamo interrogati sul silenzio inglese. Il caso Regeni ci insegna a vigilare, che è indispensabile. L'università ha attivato un'unità di crisi. Gli studenti lanciano un presidio al giorno in prima linea. Anche il sindaco Merola ed Ellie Schlein. Prendiamo il Manifesto, che a pagina 8 e a pagina 9 ne dà notizia. Vediamo qui appunto le immagini della nostra città e delle manifestazioni. Post su Facebook, sono queste le prove dell'Egitto contro Patrick Zaki. Detenzione preventiva di 15 giorni prima dell'udienza del 22 febbraio. Nel fascicolo della procura anche un falso verbale di perquisizione. La collega di Master, le autorità egiziane hanno dichiarato che non è italiano e come questo li autorizzi a farne quello che vogliono, ma noi diciamo no, assolutamente. Parla un attivista egiziano, amico dello studente. Il rapporto sul suo arresto è falsificato, così le autorità nascondono le torture. Il regime ha già scatenato i media, lo accusano di diffondere l'omosessualità. Queste le manifestazioni nella nostra città ritratte in fotografia sul Manifesto. Rita Monticelli, le comunità accademiche si stanno mobilitando, poi Mazen, un attivista tra Italia e Egitto, il governo italiano garantisca protezione a Patrick e alla sua famiglia. Famiglia che dice non è una minaccia per nessuno, non sta difendendo niente se non che diritti umani. Gli amici affermano al centro di tutte le battaglie per i diritti. Conferma anche il Manifesto, centinaia di studenti, un'iniziativa al giorno in piazza, Amnesty, Ellie Schlein e i vertici di Unibo. Ma intanto io in maniera parallela vado a fianco di questa notizia e vado sulla Stampa a pagina 9. Navi da guerra, elicotteri e caccia. Italia e Egitto affari per 9 miliardi. La tensione per l'arresto del ricercatore non minaccia la vendita di armi. Capito anche cosa ci sta dietro. Il valore in miliardi di dollari degli scambi commerciali tra Egitto e Italia nel 2018 è 7,2 miliardi. I cacciabombardieri Tifone che l'Italia venderebbe al Cairo sono numero 24 e sono soldoni. A 4 anni dall'uccisione di Giulio Regeni, le relazioni tra Italia ed Egitto sono sottoposte a nuova tensione per l'arresto del ricercatore dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki. Il rapporto strategico però non è mai stato messo in discussione, mai guai. Parliamo di un paese di 100 milioni di abitanti, al centro del mondo arabo, inserito in un asse di ferro con le monarchie petrolifere. Il presidente Abd Fattah al-Sisi, al potere del 2013, si è lanciato un programma di riarmo impressionante e noi siamo corresponsabili perché glielo permettiamo e gliele vendiamo, finanziato in parte dagli alleati e anche quelli del Golfo, un mercato preso d'assalto dai maggiori produttori di armamenti, che sono Stati Uniti, Russia, Francia. Ma adesso l'Italia è sul punto di prendersi una grossa fetta. Sì, sembra che le armi siano la moneta di scambio per i diritti umani, perché in Egitto appunto queste navi, in Libia per rinnovare il memorandum per delle detenzioni nei lager libici dei migranti, motto vedette fregate ancora. Comunque di Patrick Zaki ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, e Roberta Santoriello, che è studentessa di Link di Bologna. Sentiamo le loro voci. Quello che abbiamo saputo è che lui, come noto, è uno studente del Master in Studi di Genere di Bologna, e si è preso una pausa dagli studi per andare a trovare la famiglia nella città di Al-Mansura. Questo è accaduto nella seconda parte della settimana scorsa. È stato preso all'alba di venerdì all'aeroporto del Cairo, trattenuto per una giornata praticamente come fosse scomparso, e poi è ricomparso sabato mattina nella procura di Al-Mansur, la sua città natale, e alla fine della giornata gli è stata notificata una prima ordinanza di 15 giorni di detenzione sulla base di un mandato di cattura emesso nel 19 nei suoi confronti. Di cosa è accusato? Di quelle tipiche imputazioni che riguardano gli attivisti, diffusione di notizie false, manifestazione non autorizzata, attività per sovvertire il governo. Ora pare che i suoi post su Facebook fossero sotto l'attenzione degli inquirenti egiziani, post nei quali faceva quello che è un'attività normale, insomma, di espressione delle sue idee, di critiche nei confronti del presidente Sisi. Da alcune ricostruzioni di stampa si legge che sarebbe stato già sottoposto a una forma di tortura. A questo Amnesty International non è in grado di confermarlo, però considerato che la tortura in Egitto è la regola e non l'eccezione, queste voci che lui stesso ha riferito ai suoi avvocati di essere stato sottoposto a pestaggio e scarica elettrica è molto preoccupante, penso anche plausibile. Voi giustamente avete fatto un parallelo, che è quello ovviamente con Giulio Regeni, per evitare che si arrivi a quel punto. Ma ci sono, come dire, delle cose che mettono poi brividi: l'università come luogo di studio, il fatto che Zaki fosse in Italia, quindi più o meno insomma la comunità italiana dei difensori dei diritti umani è coinvolta, dopodiché le differenze sono evidenti, insomma Giulio era un ricercatore, Zaki sì, a sua volta, ma anche aveva un che di militanza politica, militanza per i diritti. La cosa che stiamo sottolineando in questi giorni, dobbiamo fare assolutamente, è tenere alta l'attenzione, perché già le autorità egiziane hanno mandato a dire che dobbiamo farci gli affari nostri perché non è un cittadino italiano, e il rischio è che se, come in altri casi, non si alza la voce, poi possono fare veramente quello che vogliono. Verrebbe da dire che anche se fosse stato italiano, abbia appunto il caso di Giulio Regeni lo dimostra, non è che cambierebbe qualcosa per avere appunto giustizia. No, evidentemente in Egitto hanno questa idea che c'è un criterio di nazionalità sulla base del quale si interviene o meno sulle violazioni dei diritti umani, ma è un concetto che di fronte a un tema intanto che è enorme come la situazione dei diritti in Egitto, e di fronte a quello che ci hanno insegnato per 4 anni i genitori di Giulio, cioè che dei tanti Giulio e le tante Giulia d'Egitto, qui è naturale che siamo coinvolti. Le autorità italiane, il governo ha reagito in qualche modo? Ma dichiarazioni al momento di circostanza, di attenzione sì, abbiamo visto che c'è stata una chiamata all'Unione Europea per attivare quei meccanismi di presenza nei processi che in alcuni casi hanno fatto sì che i diplomatici fossero presenti alle udienze. Qui c'è anche un tema che però riguarda direttamente il nostro paese, nel senso che Zaki non è un fuggiasco che è scappato in Italia di nascosto, è uno studente che ha vinto un master molto molto selettivo, in Italia si è applicato con profitto, tutti lo descrivono come un studente impegnato, intelligente, colto, e quindi c'è un dovere di protezione che riguarda la sua università a Bologna, ma direttamente anche alle istituzioni italiane. Noi abbiamo pensato di rilanciare un secondo appuntamento dopo ieri sera per coinvolgere tutta la comunità accademica per esprimersi in solidarietà a Patrick, e quindi chiaramente fare in modo che l'Unibo, anche a livello più formale e ufficiale, esprima solidarietà a Patrick, e chiaramente poi si faccia anche portatrice di una denuncia contro l'Egitto e contro i crimini che il governo e il regime di Al-Sisi sta commettendo nei confronti del popolo egiziano, nei confronti dei diritti sociali, umani e politici, e chiaramente anche nei confronti dell'istruzione, dei saperi e della ricerca. Quindi appunto noi abbiamo pensato di organizzare questo presidio oggi in zona universitaria in Piazza Scaravilli, coinvolgendo anche tutte le altre realtà che erano presenti ieri sera, quindi sicuramente ci sarà anche Amnesty Bologna. Siamo in contatto anche con le studentesse e i compagni di corso di Patrick del GEMMA, che hanno organizzato insieme a noi il presidio di oggi. Quindi insomma qualcuno di voi comunque lo conosce Patrick? Noi direttamente no, però sì, cioè sì, ci saranno appunto studentesse e compagne di corso che conoscono direttamente Patrick, sì. Ho visto che sul sito di Link inizia ad esserci già anche un appello. Tu prima dicevi vogliamo il coinvolgimento ufficiale dell'università, ci sono già dei docenti che si sono espressi, qualcosa si sta muovendo? Sì, abbiamo visto che già dei docenti si sono espressi, erano presenti anche ieri sera al presidio in Piazza Maggiore, però sì, sicuramente qualcosa si sta muovendo. È chiaro che dobbiamo attivarci il prima possibile per anche far girare la notizia e fare in modo che insomma il governo agisca subito e non ci sia la situazione di Giulio Regeni in cui si è pensato comunque di quasi dimenticare la vicenda. Quindi è chiaro che bisogna muoversi subito, agire il prima possibile per far girare la notizia, per pressare il governo. Quindi chiaramente è bene anche se l'università in tutte le sue componenti si esprimono in solidarietà a Patrick. Tu hai evocato Giulio Regeni, ovviamente un parallelo che viene abbastanza spontaneo, sperando che, come dire, l'epilogo sia diverso. Ovviamente, perché è il mondo, diciamo, accademico essere colpito ancora appunto dal Sisi e dall'Egitto, secondo te? Perché chiaramente il regime totalitario di al-Sisi opprime, rigetta tutti quei saperi che non sono in linea con il regime stesso. Quindi è chiaro che la ricerca, i saperi, l'istruzione, anche come strumento di emancipazione e di denuncia, diventano un problema per il regime. Quindi secondo noi, sia come è successo per Giulio Regeni, questo non è che l'ennesimo attacco al pensiero critico, al mondo della ricerca e dei saperi, connessi comunque a un attivismo sociale, nel momento in cui si fanno strumento di denuncia sociale di un regime che opprime i diritti del popolo egiziano, quindi dei civili, è chiaro che diventa un problema. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. E allora veniamo all'Irlanda, cominciando da chi non vuole pubblicare. È il Corriere della Sera, che è da due giorni che non parla della vittoria delle Sinn Féin in Irlanda del Nord, nell'Eire. Perché evidentemente non gli piace questa cosa, quindi ha preferito non far sapere ai propri lettori quanto è buono il Sinn Féin con le pere questa. Oggi scrive un paginone sulla Gran Bretagna che recita: Johnson, guerra in casa, Downing Street tra la fidanzata Kerry e la stratega della Brexit. Poi sulla BBC una serie TV sulla crociata di Greta, e ancora Londra, ex autista Uber, pianificava attentati. Ma del Sinn Féin niente. Vediamo se domani ci sarà in qualche modo, si accorgeranno che è successo qualcosa in Irlanda. Ce ne accorgono gli altri giornali, come con Sabrina Provenzani dal Fatto Quotidiano, che va a intervistare la vincitrice Fintan O'Toole. Per i giovani nati dopo l'ira, il Sinn Féin è la sola alternativa, parla l'editorialista dell'Irish Times. Con queste elezioni è finito il duopolio dei partiti di centrodestra, è durato quasi 100 anni. Ed è una questione sociale molto viva, ma c'è anche l'altra questione che torna a essere di grande attualità: l'unità dell'Irlanda dopo la Brexit, che ha creato i problemi di confine tra l'Eire e l'Ulster. E allora domando di Sabrina Provenzani alla Fintan O'Toole, editorialista del Irish Times. O'Toole, che significato ha questo voto con l'affermazione a sorpresa del Sinn Féin, la crisi del Fine Gael e del Fianna Fáil, che sono due partiti che sono sempre contesi il governo dell'isola? Risponde l'editorialista: è un risultato sismico, un terremoto che segna la fine di un duopolio di centrodestra durato quasi 100 anni. Nessuno lo aveva mai visto arrivare, nemmeno il Sinn Féin, che infatti è scottato dalle sconfitte recenti delle amministrative e delle europee, non ha presentato abbastanza candidati per governare da solo. Errore grave ma comprensibile, perché avrebbe potuto fare il corpo a uno colore. C'era un malcontento diffuso contro chi ha governato, la sanità è paralizzata, difficile persino comprare o affittare una casa. Quanto ha contato la mobilitazione dei giorni degli anni scorsi sui diritti sociali, la campagna per la legalizzazione di aborti e unioni gay? Moltissimo. Quindi ricordiamo che il Sinn Féin è nella patria del cattolicismo per eccellenza, l'Irlanda del sud e del nord, però è un movimento laico che appunto si batte per i diritti di tutti, delle donne e dei gay compresi. Moltissimo. Il successo di quelle campagne ha dimostrato che un cambiamento radicale per via democratica è possibile. Questo ha galvanizzato migliaia di persone. C'è anche un fattore generazionale: questi giovani sono più propensi al rischio perché non hanno rendite di posizione da difendere, non hanno lavoro, non hanno casa, non hanno niente da perdere. E quanto ha contato allora per l'adesione del Sinn Féin a quelle campagne? Mary McDonnell e la sua vice Michelle O'Neill si sono schierate fuori dalla legalizzazione dell'aborto, una scelta molto controversa nella base cattolica, specie in Irlanda del Nord. Hanno fatto una scelta di principio femminista, a cui sono rimaste sempre coerenti. Credo che questo abbia convinto anche molte donne a votare Sinn Féin. L'ultima domanda epocale: Sinn Féin può andare al governo? Non è facile, ma è possibile. Non tanto con un'alleanza con gli altri partiti di sinistra, per quali non ci sono i numeri, quanto con una coalizione con uno dei partiti principali, che però continuano ad escludere l'ipotesi. Per evitarlo, Fine Gael e Fianna Fáil dovrebbero allearsi tra di loro, ma sarebbe puro opportunismo, probabilmente il di breve durata, viste le appartenenze tribali che li dividono. Sì, ripreso solo dal Manifesto, tra l'altro, la Stampa e Repubblica, figuriamoci il Carlino, non ne portano notizia. Pagina 4, il Manifesto: il ciclone Sinn Féin travolge l'Irlanda. Tutto può succedere, danno anche i numeri. Repubblicani di sinistra 24.5%, i due partiti finora al governo, il centrodestra con Fianna Fáil 22 e Fine Gael il 21. Però per formare il governo è necessaria un'alleanza fra due dei tre partiti che abbiamo appena citato. Mentre la tempesta Ciara si abbatteva sull'Irlanda, il ciclone Sinn Féin si scatenava alle urne. Il partito repubblicano di sinistra, guidato da Mary Lou MacDonald, è stato infatti il più votato alle elezioni politiche dello scorso sabato. Ottiene il 24.5% delle preferenze. Inseguono i due partiti di centrodestra che da anni si alternano al governo del paese, Fianna Fáil e Fine Gael, per dare un'idea dell'enormità del risultato. Nelle elezioni del 97 Sinn Féin aveva ottenuto, pensate, soltanto il 2,5%. Da allora il partito ha registrato una crescita costante. Il risultato di sabato è davvero storico e ridisegna le geografie politiche del paese, da più di 80 anni governato esclusivamente dall'uno o dall'altro partito di centrodestra. Tutto ciò in relazione anche con la Brexit, tutto ciò in relazione anche con i confini tra Belfast e Dublino. Insomma, questo è di approfondimento importante per come si stanno spostando gli equilibri all'interno di un centro-sinistra che ha bisogno sempre di più di una sinistra presente e legata a principi progressisti per i diritti umani, per l'ecologia, per l'ambiente e tante altre cose che spesso riportiamo. Fra l'altro, sembra quasi che per Repubblica e per la Stampa i veri nemici siano quelli di sinistra piuttosto che la destra, ma questo succede anche negli Stati Uniti d'America, dove i democratici hanno più attenzioni tra virgolette per Sanders piuttosto che cercare di ostacolare un Donald Trump. Questo è parere personale, ma comunque lo vedremo negli altri degli esteri. Ad esempio, basta cambiare quotidiano e andare sulla Stampa, pagina 11, l'appello di Sanders ai giovani: riempite i seggi e vinceremo. L'affluenza tra i giovani è al 33%, se sale a novembre battiamo Trump. Scusate, Bernie Sanders, senatore del Vermont, candidato dei democratici. New Hampshire, oggi le primarie dei democratici e duello con Buttigieg. Il primo ad ammetterlo è proprio lui, appena sale sul palco nella palestra del Clean State College. L'affluenza delle urne in Iowa non è andata come speravo, però tra i giovani è aumentata, dice, del 33%. Se riusciremo a farla salire in tutto il paese, vinceremo la nomination e anche la Casa Bianca. Così, insomma, continua Bernie Sanders con entusiasmo. Ma a proposito di Trump, un budget da 4,8 trilioni di dollari, tagli alla sanità e ovviamente non possono mancare certamente più soldi alla difesa. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. A proposito di elezioni, ritorno da questa parte dell'oceano, perché anche in Germania ci sono stati problemi, e resto sulla Stampa e concludo. La ritirata di Kramp e Karen Bauer, mai accordi con l'estrema destra. L'Angela Merkel comincia a avere dei problemi perché la sua delfina lascia la guida della CDU dopo 14 mesi. Paga le gaffe e il caso Turingia. La presidente della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, arriva in conferenza stampa del quartier generale di Berlino per annunciare le sue dimissioni. Intanto corsa 3 per la successione, le anime dei conservatori divise sull'apertura alla AfD. Un centrista, un falco ultraliberista, un outsider impapabili dopo AKK. Mai come ora il rischio di una fine anticipata della famosa grande coalizione. Sì, sembra che la balena bianca tedesca stia in contrazioni peristaltiche, perché leggo anche dal Fatto Quotidiano con Uschi e Udino le dimissioni di HKK, crisi CDU, anche la Merkel non si sente tanto bene, quindi la diaspora, pasticcio Turingia, l'alleanza tra i centristi e l'AfD, cioè i nazisti del Land, ha svelato le divisioni interne al partito della cancelliera, tra chi non disdegna l'ultradestra e chi invece spinge a sinistra per la Linke. Quindi veramente c'è la divaricazione più totale. Meno divaricazioni invece in Salvador, per tutti guardare, come cattivo Maduro, come cattivo è. Guardiamo in Salvador gli amici di Donald Trump. Il presidente Bukele entra in Parlamento con i militari: o i soldi o la dittatura. Leggiamo. O plato o piombo. È vero. O plato o piombo, come dicevano appunto di narcotraffico. Se fossi un dittatore, ma se fossi, che non rispetta la democrazia, avrei già preso il controllo di tutto. abbiamo l'appoggio del 90% del popolo salvadoregno, leggo dal Fatto Quotidiano. Questo è il presidente del paese centroamericano Nayib Bukele, che ha risposto al giornalista del quotidiano del Paese, che è intervistato di dopo la presa del Parlamento. Bukele, alla guida del Salvador dopo una schiacciante vittoria, ha preso il 54% dei voti, che sono tanti, ma non è il 90% della popolazione, non mi sembra, ecco, sinceramente, un po' come quando Salvini dice io, gli italiani sono con me, no, al 30%, né gli altri 70 se li ha abbonati gratuitamente. Ma andiamo avanti, sono tutti figli del popolo, tutti voci del popolo. Si è presentato davanti all'emiciclo sostenuto dai soldati dell'esercito, accompagnato, no? E dopo aver preso il posto del Presidente del Parlamento, posto è mio? No, per carità, a maggioranza dell'opposizione ha ordinato ai deputati di stanziare 109 milioni di dollari per la sicurezza, cioè per i soldati che l'accompagnavano, è obbligato gli altri, quelli che non sono con lui, a votarlo, altrimenti ci pensavano i militari. E mentre l'opposizione chiede l'intervento dell'organizzazione degli Stati americani per fermare quello che definisce un autocolpo di Stato, e Amnesty lancia allarme dei diritti umani a rischio di El Salvador, ricordiamo El Salvador è quello che per anni è stato insanguinato, l'assassino anche del vescovo Romero, insomma c'è una tristissima tradizione di americani con la K, questo infatti si chiama Bukele, c'è la K. Comunque lui dice: Bukele dà un ultimatum al Parlamento, potrei prendermi i pieni poteri, avete una settimana di tempo per approvare il finanziamento, ha minacciato il Presidente, tutto in piena legalità, va detto. Questo c'è da piangere. Tu parlavi appunto degli Stati Uniti d'America, e allora ne parla anche, tutti sono per Buttigieg contro Bernie Sanders, perché per esempio il giornale primari Dem, oggi si vota in New Hampshire, quindi domani avremo i voti forse, perché l'ultima cosa è i democratici, speriamo anche domani abbiamo i voti. New Hampshire è già tutti contro Buttigieg, ma lui cresce, dice, come tutti lui cresce, e invece in realtà dopo ha detto che Joe Biden è contro Buttigieg, no? I sondaggi del New Hampshire mostrano un duello tra i due ex sindaco al 23-25 e Bernie Sanders, che rimane comunque in testa col 29% dei, quindi, ma Bernie Sanders non è mai considerato, perché così, e infatti anche qua l'analisi dell'intelligenza artificiale secondo Massimo Gaggi del Corriere, e il computer Polly prevede Bernie ma tifa Major Pete, quindi vince Bernie Sanders, però deve essere quell'altro il candidato a prescindere, quindi questo è quanto. Ma veniamo invece al coronavirus, perché arrivano notizie davvero poco confortanti su questo versante. Non solo l'allarme dell'OMS sui contagi sono alla punta dell'iceberg, sospetti al buio dei casi dei paesi limitrofi alla Cina, sui studio di Shanghai test sui topi per un vaccino, questa è l'unica speranza, no, che rispetto alla scienza e ai suoi progressi. Ma è difficile pensare che, nonostante la quarantena così molto drastica imposta dalla Cina alla sua popolazione, e tra l'altro anche una popolazione ben collaborante quanto sembra, difficile pensare che, per esempio, la malavita, i traffici clandestini occulti rispettino questa quarantena, per dirne una. L'altra cosa molto preoccupante è che aumenta il contagio, bassa mortalità percentuale ma in assoluto tanti morti, più della SARS, perché contagio è davvero enorme in Cina, e ancora sembra che la quarantena possa arrivare fino a 24 giorni, quindi questo è un altro elemento di grande preoccupazione. E allora in fronte a questo normalmente volano i corvi, per esempio la verità, il coronavirus è fuori controllo, l'Italia fa l'inchina a Pechino, non vuol dire nulla, perché cosa deve fare l'Italia non si capisce bene, però insomma questo per creare questo clima, oltre al primavero l'inevitabile psicosi che qualcuno vuol cavalcare follemente, ma c'è, la follia sembra di essere moneta frequente di questi giorni. Virus, dice il Corriere della Sera in apertura, nuovi controlli in Italia, Borrelli, se servono verifiche nelle stazioni, confermato lo stop ai voli con la Cina, quindi con questo problema con la politica cinese che non è d'accordo per niente, allerta lo emesso sui contagi del mondo, parlano i connazionali sulla nave in Giappone, che è su quella nave naturalmente corre un fortissimo rischio, perché lì è praticamente una quarantena a contatto con il virus. Questo è tutto, ok, io faccio Tai Chi e sul diario social dell'Italia, sulla nave in quarantena, vita di 3.000 turisti bloccati al largo di Yokohama. Naturalmente questa cosa ha mille rivolti, c'è quello sanitario in primis, di cui si parla naturalmente con maggior preoccupazione, ma c'è quello economico da adesso e quello economico in prospettiva, oltre a quello della psicosi. Quello economico da adesso, per esempio, stop improvviso al boom del turismo, c'è anche in Italia tra i paesi più colpiti, ma non credo che nessuno voglia aprire in questo momento ai turisti cinesi gli alberghi, forse i primi sono gli albergatori per qualche rimora su questo versante. Quindi defezione a raffica in fiera dei congressi, Amazon e Sony forfè a Barcellona, champion asiatica, qui c'è anche lo sport perché sembrano anche a rischio le Olimpiadi di Tokyo, per esempio. Champions asiatica, sospese le partite, l'Atletica rinvia i mondiali indoor. Insomma, è tutto un tra cose chiaramente sopportabili come rinvio di Olimpiadi, ma è cose invece ben meno sopportabili, è davvero un grande problemaccio. Sì, certo, il coronavirus tiene banco anche sulle prime pagine dei quotidiani da me selezionati, basta prenderne uno a caso. Mi capita La Stampa di Torino, la fotografia inquietante, vede il presidente Xi Jinping presentarsi con mascherina e con tutto il suo staff coperto e protetto. L'allarme dell'OMS sul coronavirus, il pericolo diventa globale. La maschera gigante è vulnerabile, Gianni Riotta nell'editoriale per quanto riguarda l'est. Andiamo a pagina 4, restando sulla Stampa di Torino, e vediamo l'apertura e l'approfondimento su tale tema. A rischio 13 miliardi di export, il piano del governo per scuotere l'economia. Vertice a Palazzo Chigi, Di Maio dichiara: il blocco dei voli con la Cina resterà finché i contagi non rallenteranno. Allerta massima nei punti di scambio, ad esempio il porto di Genova, ma dalla Cina per Genova non partono più container. In queste prime settimane perso il 5% dei volumi, la gente ha paura che il virus arrivi anche via nave. Feste annullate, ristoranti vuoti, il Chianti teme perdite del 10%. Insomma, questo è un approfondimento che riguarda più l'aspetto economico, certamente più inquietante l'aspetto per gli esseri umani. Vediamo due fidanzati che si baciano con la mascherina, veramente inquietante. Nel laboratorio testato il vaccino sui topi, Trump: con il caldo sarà tutto finito. È veramente preparato, perché di solito il caldo non è, diciamo così, un tramite. No, tutt'altro. A Wuhan ospedale collasso, diagnosi lente, medicine finite. La Cina cambia i protocolli per individuare i malati, introdotto le termografie computerizzate, città vuote anche nel rientro dalle feste, le aziende ai dipendenti lavorate da casa. E i contagi nel mondo, dice in maniera preoccupante pagina 6 con Francesca Paci, La Stampa: i contagi nel mondo sono solo all'inizio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'allarme sul coronavirus: siamo alla punta dell'iceberg, timori per un'epidemia in Africa, dove certamente, appunto, con buona pace di Trump, direi che proprio lì non è freddo, e soprattutto le condizioni dovute alla povertà sono assolutamente precarie e preoccupanti. Riprendo l'immagine che dalla prima pagina mi riporta pagina 7 della Stampa: Xi con la mascherina costretto a mostrarsi per difendere il regime. Il presidente ricompare in pubblico: vinceremo questa battaglia, la situazione è ancora grave ma dobbiamo essere fiduciosi. Il tentativo di coprire le notizie sull'epidemia anche allo stesso momento acceso non poche proteste. A stesso momento, prima pagina di Repubblica: Xi Jinping in pubblico con la mascherina, l'epidemia è grave ma ce la faremo, rassicura. Che volete che dica anche il presidente della grande Cina? A pagina 6 e a pagina 7 troviamo l'approfondimento legato a queste realtà, restando sempre su Repubblica, che ci racconta: il virus Xi riappare in pubblico, epidemia grave ma rassicura dicendo avremo la meglio. Quei messaggi al mondo ai suoi dal leader però con la mascherina. Negli anni 50 la protezione con la garza era simbolo di osservanza al partito. Intanto la crociera in quarantena, di cui già vi dava notizia Alfredo, termometro ogni 4 ore e la chat contro la noia, diario di una nave isolata. Il racconto sui social di Roberta, una dei 35 bloccati a Yokohama, raddoppiati i contagi, ora sono 135, il comandante dice speriamo finisca. I bimbi giapponesi che ci hanno scritto mi hanno emozionato, mi hanno scoperto più fragili. Tra noi connazionali ci incoraggiano a uscire durante l'ora e mezza concessa per la passeggiata. Una situazione quanto mai grave. Andiamo sul Manifesto, passando per il resto del Carlino, che prendiamo a sua volta. Nave al largo, 66 nuovi contagi, italiana a bordo, test ogni 4 ore. Nello specifico dove è partito il focolaio, pagina 5 del quotidiano Felsinio: il destino di Wuhan, città fatale per il dragone. Nel 1911 la rivolta contro la dinastia Qing partì da lì, un virus politico contagiò il paese, ora uno biologico mette a rischio la Cina globalizzata. Intanto l'ultimo imperatore, ricordate Bertolucci con la pellicola che le vinse l'Oscar, raccontò l'epoca che cambiò per sempre il paese, e appunto viene ripreso qui con delle immagini, con dei percorsi, con dei passaggi fondamentali, dal piccolo imperatore fino a Mao Zedong e fino a una cittadina cinese di Wuhan chiaramente protetta dalla mascherina. Concludo questa carrellata prendendo il Manifesto Manifesto, che dalla prima pagina con la febbre sale e l'immagine del presidente Xi Jinping protetto da mascherina ci riporta all'approfondimento da pagina 2 a pagina 3. Il Partito Comunista Cinese di Wuhan è commissariato. Chen Jixin, l'alleato numero uno, mandato a sistemare le cose, tra virgolette. L'intervista a Walter Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: bloccare i voli, misura controproducente, dice. Riunione interministeriale, chiudendo e tornando in Italia, per Palazzo Chigi, un piano per proteggere turismo e beni di lusso. Nessun passo indietro sulle misure adottate, controlli sulle partenze anche da Roma. Possiamo però tranquillizzare, si può andare al cinema a vedere film asiatici senza paura di contagio. Dico questo perché Oscar coreani, Parasite a sorpresa batte 1917 Scorsese, Phoenix dedica la statuetta al fratello morto. Diciamo che ha vinto appunto Parasite, spiazzando un posto fisso spiazzante, così lo definisce il Corriere in articolo Giuseppe Sarcina. Forse deluso Joker, che ha innervato con tante nomination, anche se, come dice, dedicato, ha vinto l'impareggiabile attore Joaquin Phoenix, che per un tutto il tempo del film è in primo piano senza mai perdere un attimo di tensione. Parasite appunto ha vinto, due Colossi sconfitti, quello di Mendes nel 1917 della prima guerra mondiale, The Irishman di Martin Scorsese, l'ennesimo film di Scorsese sulla malavita americana, cioè, abbiamo già visto dai bravi ragazzi in avanti, si ripete un po' con gli stessi attori, con 40 anni di più però. Detto questo, la mia critica personale, ma di basso lignaggio, dice il Corriere, se l'Oriente sconvolge le certezze di Hollywood, però Parasite ha portato delle novità anche in Italia, perché leggo da Massimo Gramellini il Gianni Morandismo. L'unico posto al mondo in cui non si erano ancora trovate tracce di Gianni Morandi erano i film sudcoreani, ma da quando la sua voce è spuntata nel mezzo di una scena di Parasite, fresco vincitore dell'Oscar, intento a gorgheggiare in ginocchio da te, il trionfo di Gianni Morandismo può dirsi completo. Infatti Gianni Morandi dice alla Corriere di Bologna: in ginocchio da te, nel film che ha vinto il premio Oscar, ho svegliato mia moglie. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te. Per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Thank you. da Ennio Morricone a Gianni Morandi gli Oscar. No, a parte scherzi, complimenti al Gianni Bolognese. Detto questo, andiamo a una notizia che insomma mi sembra di leggere ormai da settembre, ovvero sia Renzi minaccia il governo, questo. E allora leggiamo, parliamo della maggioranza presente in Parlamento italiano con Paolo Di Caro del Corriere. Renzi, attenti o sfiduciamo Bonafede, per PD 5 Stelle è una minaccia al governo. L'ex premier contro l'emendamento sulla prescrizione. Naturalmente l'emendamento sulla prescrizione ci sta. Ancora una volta ricordiamo che la Cassazione, terzo grado di giudizio, non giudica nel merito del processo, ma sulla regolarità del processo. Quindi se il processo viene invalidato o va rifatto, la prescrizione non c'entra più niente. Questo è. Però tanto vale che chi la longa la scappa. Questa è la filosofia di tanti imputati, in particolare quelli con spalle larghe, ben rappresentati oggi da Italia Viva. Crimi inseguono la crisi, lo dicano. Poi c'è il fastidio descritto da Maria Teresa Meli per i boatos nel palazzo sui responsabili. Si cercherebbero dei vari fuoriusciti di qua e di là per creare una maggioranza centrista, tra virgolette, ma assicura di non puntare ad urne anticipate. Naturalmente è la classica qui lo dico, qui lo nego. Non c'è una maggioranza alternativa, intanto l'hai buttato il sasso in piccionaia. Infatti il governo, secondo Marco Galluzzi, sempre dal Corriere della Sera, ora Conte non vuole più sottostare ai ricatti, affrontiamo l'avviso aperto. Ma Palazzo Chigi smentisce le voci sulla nuova maggioranza, anche qua si ripete. Il guardasigilli, vogliono lasciare la riforma con me? Bene. Il capo del governo non comprende la linea di Italia Viva, anche visti i numeri dei sondaggi. Effettivamente il ricatto di Renzi andare alle elezioni è un ricatto che non è particolarmente così pregnante, perché il barimento del 5% non è. L'obiettivo è verificare se a questo punto Renzi intenda davvero rompere. E allora c'è chi dice che rompi, ed è il centrodestra ovviamente. Prescrizione, Conte si incarta e Renzi minaccia Bonafede, il Giornale. E Italia Viva vuole licenziare il ministro. L'ultima ipotesi è ancora il Giornale, che non si capisce bene quanto segue notizie, quanto segue i suoi desideri. Ultima ipotesi, Zingaretti a l'idea di ricorrere al voto anticipato. E questo, e poi è sempre i Dioscuri, i Grillini, così definiti, asse di Maio Diba in chiave anti-dem. Questo è. Ma sulla prescrizione ribatte il Fatto Quotidiano. Taranto, comune rapinato e fallito, tutti prescritti. E Renzi vuole sfiduciare Bonafede. Politici e dirigenti, se aumentavano le pensioni, rubavano anche sulla cancelleria, rimangono impuniti. Questo ragionamento naturalmente lascia fuori tutto il vero e nodo del processo giudiziario, cioè snellire i tribunali, depenalizzare i reati amministrativi, depenalizzare reati come quelli legati alla cannabis, insomma rendere più fluida i processi, quindi poi svolgere in tempi giusti e non in tempi né biblici né eterni e neanche tagliati con l'accetta, con le prescrizioni che vanno non certo a far giustizia in molti casi. Ma tutta questa politica 2.0 descritta dal Sole 24 Ore Lina Palmerini vede anche un altro elemento che viene fuori. Di certo sembrano esserci ormai un paio di cose: che si dovrà celebrare il referendum sul taglio parlamentare il 29 di marzo e che appare molto complicato battezzare una terza maggioranza nell'arco di appena 2 anni. In sostanza si vedrà che i leader trovino davvero una soluzione credibile su dei numeri e nel profilo politico per avere un terzo via libera al capo dello Stato dopo 5 mesi dal Conte bis. Sì, tra l'altro a proposito di Conte e delle minacce di Renzi, Conte l'ha lì sulla punta della lingua, pagina 3 della Stampa, la tentazione del premier. Oh, se vuole andare poi che se ne vada. Conte, stanco degli avvertimenti del leader di Italia Viva, così sfiducia il suo stesso esecutivo. Tra l'altro l'ex rottamatore risponde: se ci vuole buttare fuori, evviva, così non metto la faccia su questo governo. Insomma, la tensione è grande, poi è lui in tutti i modi che sta minacciando, lui Renzi, e poi sa girare benissimo con un'abile capriola dicendo: ma come, mi volete cacciare via? Tensione nei 5 Stelle Liguri, stanno andando verso le regionali in Liguria. Crimi rinvia la scelta, gli anti Casaleggio vogliono allearsi col PD. Ok, è una soluzione parlamentare, ma tornano le voci sui famosi responsabili, che parola questa che ritorna ogni momento di paura e tremore all'interno di un governo. Muro contro muro, prendo il manifesto, prescrizione, Italia Viva alza il tiro contro Bonafede, nessuno arretra, i renziani Tajani, no al lodo Conte bis, pronto a presentare una mozione di sfiducia al ministro PD e 5 Stelle. Sarebbe una sfiducia di governo in questo caso. Crimi frena sull'alleanza con il PD e la base grillina si spacca. Ho fatto una piccola parentesi sulla Liguria. Prendo il resto del Carlino che velocemente mette la maggioranza in affanno. Prescrizione, Renzi fa sul serio, ma PD e Movimento 5 Stelle dichiarano: guardate che così cade il governo. Italia Viva presenterà una mozione di sfiducia contro Bonafede. Non è un bluff, eh? Crimi, volete la crisi? Franceschini, se salta il guardasigilli tutti a casa. Il vero obiettivo è Conte, a cui si chiede di mediare. Chiudiamo chiudiamo questa realtà, come vi ho detto, con il manifesto e con un'affermazione di Matteo Renzi: se presenteranno davvero un decreto o un emendamento sulla prescrizione, voteremo no. Si tengono le poltrone, noi ci teniamo alle i nostri valori. A questo punto direi che, a proposito di giustizia e a proposito di realtà che mettono in difficoltà un personaggio estremamente al centro, non solo della politica, delle cronache, di più ne ha più ne metta, sempre presente, sto parlando di Matteo Salvini. Matteo Salvini sarà andato un po' in vacanza con Sanremo perché hanno dato importanza alla Nazional Popolare e lui non è stato così presente in televisione o sui media, e quindi a pagina 7 sempre del manifesto: resto con il caso Gregoretti, domani il Senato decide sul processo a Salvini. Migranti, dal governo 800 milioni di euro di mezzi alla Libia, ne parlavamo in precedenza, ricordate? La Lega potrebbe uscire dall'aula al momento del voto sull'ex ministro dell'interno, altri modo voto vedete a Serraggi per fermare i profughi in fuga dal paese, come già abbiamo denunciato in precedenza a proposito di Italia-Egitto, adesso in questo caso Italia-Libia. Domani in aula per la Gregoretti, Salvini incerto sulla strategia, infatti sulle diverse opzioni. La Lega deve decidere se accettare la decisione della giunta o votare per evitare il processo. Leader del Carroccio ostenta tranquillità e sfida i giallorossi: andrò a presto e a processo e sarò a testa alta, così dice. Non è passato poi tanto da quando Salvini diceva sul Gregoretti: sparate al cuore Ramon, cioè io sono pronto, mi procederanno tutti. Adesso invece Gregoretti, adesso Salvini vuole scappare dal processo, anche perché spera perfettamente che non dipende dalla commissione ma diventa dal Senato, quindi adesso si va. Quindi il voto domani a Palazzo Madama regna il caos tra i leghisti, dopo il sì in giunta per le elezioni in Emilia il leader potrebbe abbandonare l'aula, lo smarrimento, anche Fratelli d'Italia e i forzisti non sanno che fare e si aspettano la decisione finale, perché ovviamente è un alleato un po' ingombrante questo Salvini, che impone la Borgonzoni in Emilia Romagna, poi dopo la fa andare al Senato e non la fa venire in regione, le Gregoretti sì ci sono poi scappa, insomma, questo è forse troppo imbuito. Ma veniamo allora alla pagina economica del Corriere. Produzione mai così giù da 6 anni, la frenata dell'auto meno 13,9%, calo dell'1,3%, l'ufficio parlamentare di bilancio taglia la stima del PIL del prodotto lordo a più 0,2. Questo è naturalmente, quando diciamo queste cose, i giornali danno la colpa a tutto, giusto o non giusto che sia, danno la colpa all'Europa, alla Cina, alla Brexit, ai dazi di Trump, alla burocrazia, alla politica, al governo, tutti meno che i padroni, i quali non hanno mai una responsabilità che una, anche perché sono loro che finanziano i giornali, quindi sarebbe difficile che si autoaccusassero, e anzi solitamente vengono presentati come gli eroici padroni italiani che nonostante la crisi continuano a guadagnare. Questo è il momento eroico che viene segnalato. Nel frattempo Unicredit taglia 6.000 posti in Italia. Si ripartirà dai prepensionamenti. Lettera ai sindacati per l'avvio delle trattative. Questa lettera ai sindacati, come viene descritta dal Sole 24 Ore, Unicredit, 2 mesi ai sindacati, cioè Unicredit dà l'ultimatum ai sindacati, vedete come si rivolta per l'accordo sui 6.000 esuberi. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera. Poi abbiamo notizie che in ordine sparso vengono dal mondo del lavoro. Per esempio, se andiamo in cronaca italiana bolognese, abbiamo: oltre alla crisi la ripartenza dell'ex Breda, l'azienda torna ad assumere ma la Fiume parina gli entusiasmi, si procede troppo lenti. Mentre crisi Dem, qui sarebbero delle buone notizie anche qua, ma sempre con molta moderazione, noi speriamo di essere buoni anticipatori. Non chiude il reparto non chiude, l'azienda integra la cassa integrazione, un primo passo per garantire continuità produttiva della Dem di Porretta, ma ancora tante incertezze sul piano industriale. Questo è per quanto riguarda aziende nostrane. Ma uno dice: c'è la crisi, va male per tutti. Perché leggo non da Lotta Continua ma dal Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, quindi come dire, gente ben informata dei fatti. Dunque, è aperta la caccia ai grandi patrimoni tra i 5 e i 10 milioni, dice Lucia Incorvati. Lo scenario che viene descritto è questo: anche in Italia continuano a crescere le grandi ricchezze. Ma come? Con la crisi continuano a crescere le grandi ricchezze? E allora c'è le private bank, le banche private, quelle che sono sì, il cono d'ombra che non si capisce bene, stanno organizzando servizi specializzati per offrire ai clienti gestioni su misura. Questo, secondo analisi di IPB, non so cosa sia, ma sarà un organismo padronale, questa fascia di clienti presenta il potenziale di sviluppo con maggiori margini di crescita maggiore. Cioè, più c'è la crisi, più loro guadagnano. Ma guarda un po', questa crisi che brucia milioni, non li brucia mettendoli in una forno, ma li mette al sicuro dove sanno loro, nelle tasche. Ma a proposito dell'osservazione di Alfredo, è colpa di tutti se c'è la crisi, tranne che dei padroni, il resto del Carlino ne è la conferma, perché l'editoriale di Giuseppe Turani, le ragioni di una crisi infinita, beh, la soluzione, bisogna lasciare le imprese libere di correre. Più di così, la rivoluzione industriale 4.0 non c'è stata, anzi la produzione è tornata indietro dall'1.3% e di fatto si è tornati a dove si era 6 anni fa. Tante parole ma zero fatti. Curiosamente poi si salva solo l'industria alimentare, tutto il resto arretra ed è quasi inutile chiedersi perché accada tutto questo. È inutile, sì, non c'è tanto da riflettere perché capita questo, insomma lo sappiamo. La congiuntura mondiale non è brillantissima, ma l'Italia ci mette del suo, una serie di governi con l'aria di essere sempre provvisorio, di passaggio, una certa diffidenza di fronte nei confronti dell'attività produttiva, le incertezze letali sull'ILVA di Taranto non ancora risolte chiarite, e prosegue con un peana padronale liberista più sfrenato, Giuseppe Turani, nell'editoriale va da sé sul resto del Carlino. Repubblica invece in prima pagina: rischio recessione, industria Italia sotto zero, crolla la produzione meno 4.3% a dicembre, colpa dei dazi, della mancanza di investimenti, allarme per gli effetti dei coronavirus sulle aziende, il governo sgravi fiscali come per il terremoto, aprire nuove commesse di lavoro, dare più lavoro per tutti, mettere in circolo per tutti una possibilità di investimento, una possibilità di denaro, invece soprattutto per i giovani, e togliere la precarietà, la sicurezza sul lavoro anche fisica va da sé, nessuno ne parla. E appunto, come vi dicevo, da pagina 2 a pagina 4 su Repubblica vi è appunto un fantasma: recessione, produzione industriale giù del 4.3%, Renzi, il governo acceleri su cantieri e tasse, quindi tolga le tasse e dia il via libera a tutti i cantieri. Altro dato negativo: dopo lo stop del PIL pesano i dazi e l'assenza di investimenti. Giovannini, ex ministro e presidente Istat: siamo un paese senza progetto, a noi non serve che le persone siano semplicemente occupate, beh però intanto bisogna aumentare il lavoro nei settori di alta produttività, è come un terremoto, un decreto antivirus per aiutare le imprese, sempre per aiutare le imprese. A proposito di lavoro, magari più nel dettaglio, vado velocemente sul Manifesto, sulla pagina dedicata al lavoro: tagli governativi, pensioni, sindacati, uscita flessibile da 62 anni senza ricalcolo contributivo, confronto a Palazzo Chigi con i partiti, Conte, la famiglia sarà la priorità, così dice del 2020. E allora andiamo sempre sul tema dell'economia, delle grandi opere in questo caso. Il dossier è così descritto in modo così amaro e ironico da Carlo Di Foggia del Fatto Quotidiano: l'ideona autostrade, lo Stato si ricompra le quote dai Benetton, strani giri, il piano al Ministero rilevare il 49% di Aspi da Atlantia usando la cassa depositi, costo 5 miliardi in alto mare, troppi nodi, ipotesi finita su un binario morto, ma resta lo Stato sul ritiro della concessione. A proposito di binari morti, andiamo all'indagine sul treno di Lodi. Subito i giornali hanno trovato la colpa a 5 operai, è chiaro che sono colpevoli. La loro romana è la cosa più comoda, è anche l'aspetto più, l'anello debole della catena. Poi in realtà, dopo la deposizione dei 4 operai, la cosa si complica, perché l'indagine si allarga a Bologna, tolta la corrente allo scambio. Interrogati i 5 operai che hanno detto di aver levato l'alimentazione al deviatoio, dubbi sull'operato della sala operativa indagata a Rete Ferroviaria. L'allarme segnalato non è stato visto, oppure c'è stato un errore di sistema. Quindi l'errore umano, che è sempre appunto la panacea di ogni scandalo, a questo punto viene messo in discussione. Poi parliamo invece sempre del mondo del lavoro, parliamo dei ricercatori. Abbiamo visto come la ricercatrice che ha isolato il coronavirus è una precaria. Ma non solo. La storia raccontata da Carlo Macri del Corriere, scoprigine dell'Alzheimer, per me alla Messia niente fondi. Questo è il premio, delitto e castigo. Amalia Bruni, eccellenza al sud, così il centro di neurogenetica sta chiudendo. Eh beh, è inutile, ha scoperto il gene dell'Alzheimer, che cosa stiamo a fare? Non è come il traforo della Val di Susa, che è così importante, o le grandi navi del... No, questo invece, quattro bolognine biologiche se ne sono già andate. Accidenti. Altri 10 dipendenti hanno la lettera di licenziamento. E questo è quello che succede appunto nel mondo del lavoro, della ricerca, dell'istruzione, della scuola, della sanità, e chi più ne ha più ne metta. Ma per quanto riguarda la cronaca, insulti e botte, aggressione razzista nel cuore di Palermo, a pagina 9 del manifesto. Sabato nel centro della Movida, il ragazzo di origine senegalese, qua col sopracciglio praticamente tumefatto, è stato assalito dal branco, dei gran coraggiosi. Conte Baubkar difende la sua città accogliente, peccato per quei pochi animali. Continuiamo, italiane nere, razzismo bianco, c'è questa ragazza bellissima di colore su Vogue Italia, una diciottenne della provincia di Vicenza, finisce in copertina su Vogue accanto alla scritta Italian Beauty, un consigliere leghista addirittura, quindi non è un commento sui social così, no, è un consigliere leghista, critica la scelta con motivazioni razziste. Per me una Chiampese Doc è una ragazza solare e bianca, ma è allucinante sta roba, ha scritto ieri Daniele Beschin sotto il post di congratulazioni alla cittadina pubblica dal sindaco di Chiampo Matteo Macillotti. Al leghista non sono andate giù le origini di Mati Faldeba, nati in Senegal ma in Italia da quando ha 9 anni, è quello che è il colore della sua pelle, dice, quindi non è colpa mia, è lei che è nera. La Lega ha preso le distanze dal suo esponente politico espulso, meno male, anche dal gruppo consigliare, e che non ci torni più dentro, magari però riesce a entrare, esce dal portone Lega e entra dalla finestra Forza Nuova, uno così. A proposito, la destra cavalca al giorno del ricordo, siamo a pagina 8 del manifesto. A Bassovizza Pedriga, Meloni e Gasparri scatenato contro slavi e comunisti, il PD abbandona la cerimonia. Sconcerto per le parole di Mattarella, tra gli sloveni, tra i democratici e tra gli storici. Come Alfredo, che c'è tutta confusione su ste foibe. Il giorno del foibe riaccende la polemica tra PD e centrodestra. I Dem lanciano la cerimonia dopo l'intervento di Gasparri, contro il Corriere, slogan aggressivi di Casa Pound e la gaffe di Vauro, perché Vauro ha parlato di strumentalizzazione, tutti dagli addosso. Ma sì, e naturalmente sul revisionismo abbiamo una cosa che non è pronunciabile, si dice Bella Ciao, perché Bella Ciao, la sfilata dei carri, Forza Italia, carnevale strumentalizzato. L'accusa di Forza Italia, organizzatore dell'evento, Perdica, si è superato il limite, fanno il lavaggio del cervello. Sì, parla di democrazia, ma quando mai? Allora, eccolo qua che viene avanti, cretino, è il premio di quest'oggi, viene assegnato a chi? A Luigi Cabrino. Perché il referente di Forza Nuova, un ex prete, immagino che non era un bergogliano, posso immaginare. Shock e indignazione per il nuovo consigliere, era un parroco nel Monferrato. Beh, saranno contenti invece i parrocchiani che sono tolti di mezzo questo personaggio. Pensa andare a confessarsi da Luigi Cabrino. Aiuto. Indignazione e sconcerto per la carriera di un ex parroco, togliersi l'abito e unirsi a Forza Nuova, partito di estrema destra. Nel weekend sono tutti gli occhi stati in punta sul casale Monferrato, cittadino di Alessandrino, che sabato ha accolto in contemporanea la commemorazione per la giornata del ricordo organizzata da Forza Nuova. Immaginate anche qui l'aspetto pulito, storico, certamente scevro da ogni tentazione fascista, razzista, no, ma quando mai Forza Nuova? E a 1 chilometro di distanza, quella lanciata dall'AMPI, attivisti del partito dell'estrema destra, per l'occasione hanno presentato il nuovo referente, tal ex parroco Luigi Cabrini. E poi anche il giornale cui sto leggendo ci porta... Via da qui, negro di merda, senegalese picchiato da branco di coetanei, la folla ha assistito alle botte senza fare nulla e i balordi sono stati ripresi dalle telecamere. Questo è anche qua, si riporta modelli di colore su Vogue, il leghista non è italiano. Ah, fatemi entrare, voglio giocare, voglio ballare insieme a voi. Sono buono, ma sarà, vi porto un po' di vino, non ci piace, e son di compagnia, va all'inferno e così. con un altro mi scambiate. Non feci mai del male. Mio padre è guardia comunale, mia madre lavora all'ospedale. Per questo tu non sei a noi uguale. Oh, fatemi entrare. So che scherzate, poi canterete insieme a me. Oltre ignorante, sei anche patente, con noi non la spunti e non chiede il perché. Prima le vocine, direbbe la Meloni in questo caso. Comunque andiamo avanti, cronaca locale. Giunta chiusa in settimana, Pizzarotti propone una donna, in cambio un posto al PD nell'esecutivo di Parma, quasi fatta per Gibertoni alla sanità. Queste sono le previsioni, non so quanto verranno confermate, comunque, di Marina Maduzzi e Francesco Rosano dal Corriere della Sera di Bologna. C'è appunto questo incrocio, intreccio non facile da risolvere per Bonaccini tra le componenti regionali, in particolare Reggio Emilia e Parma, e la quota donne. Comunque, al netto della sanità, l'unico nome considerato blindato da giorni è quello di Elly Schlein, la capogruppo in Emilia Romagna, coraggiosa, per cui attesa la nomina vicepresidente della regione con un'ipoteca alla nuova delega alla diseguaglianza, welfare dritte per intendersi. Sufficientemente solida la presenza del cesenate Dem Lilia Montalti. Le ultime due caselle femminili invece ballano di più. A Parma il PD si aspetta che la scelta ricada sulla consigliera eletta Barbara Lori, mentre il sindaco Federico Pizzarotti ha un'altra idea, considerando anche il fatto che i Dem a Parma sono andati peggio rispetto alla media regionale. Il nome che l'ex 5 Stelle ha proposto alla fine della giornata settimana scorsa è quello del suo assessore Tiziana Benassi. Quindi una presenza anche di una polonese, Pilato Pirollo, rischiano di escludere la città di Reggio. Poi comunque vedremo i vari nomi, mentre vengono considerati sicuri i Filicori e la cultura, e comunque aspettiamo qualche giorno, se ne sapremo di più. Cantiere Bologna, sold out in sala borsa per Santori, quindi incontro con le sardine. Lepore nel 2021 è presto, occhi puntati sull'assessore alla cultura in prima fila. Sì, Lepore c'era, ma c'erano anche tanti altri del mondo della politica. C'era per esempio Pier Ferdinando Casini, con le sardine c'entra un casino, vero? Poi Sandra Zampa, Flavia Franzoni, Moim Romano Prodi, la consigliera comunale Amelia Frascaroli, vice sindaco e neoletta in regione Modena Pilati. Poi Roberto Morgantini, ideatore delle cucine popolari, tra il pubblico anche Giambattista Borgonzoni, eccetera eccetera eccetera. Insomma, dice Sartori, le elezioni del 2021 a Bologna sono un orizzonte ancora lontano, prima pensiamo alle prossime regionali di maggio sulle quali ci stiamo organizzando. Sì, concludo la cronaca locale con un'intervista. Dal Comune di Bologna stanza 1 milione di euro per il supporto al caregiver, le persone che si occupano dei propri cari non autosufficienti. Le risorse non andranno direttamente alle persone, ma finanzieranno dai servizi ai loro rivolti. Sentiamo le parole dell'assessore al welfare del Comune di Bologna, Giuliano Barigazzi. Con questo noi vi salutiamo, per oggi è veramente tutto. Vi diamo appuntamento a domani con la rassegna stampa e vi auguriamo un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Sentiamo l'intervista. Abbiamo stanziato questo 1 milione di euro, abbiamo fatto questo accordo con le organizzazioni sindacali, credo che sia una delle prime volte che un comune stanzi proprio una posta di bilancio così alta, che ripeteremo anche per il 2021 e per il 2022, a favore delle persone che assistono appunto i propri cari. Si parla davvero di decine di migliaia di persone, 120.000 in Emilia Romagna, quindi diciamo in maniera indicativa, perché non ci sono delle statistiche così chiare, 10.000 persone a Bologna. Sono persone che spesso passano molto tempo della loro vita ovviamente per assistere i propri mamma, il proprio papà, un coniuge rispetto all'altro. Crediamo che sia innovativo perché si sposta davvero l'attenzione dalla quantità di servizi che già diamo alle persone non autosufficienti a chi invece li assiste. E allora questo 1 milione abbiamo cercato di stanziarlo per una serie di servizi che si attiveranno tra aprile, maggio fino a settembre a regime. Sono 5-6 aree di intervento che vanno da un numero telefonico che dovrebbe essere il primo a partire ad aprile, maggio, per cercare di orientare le persone che si trovano in questa situazione. Una delle prime questioni che hai quando un tuo caro diventa non autosufficiente è il disbrigo delle pratiche, dove andare, dove sbattere la testa spesso, e vorremmo ricostruire noi per le persone il percorso che bisogna fare anche in termini burocratici, quindi un orientamento, una funzione di orientamento e di garanzia per tutte le persone. Poi disbrigo pratiche, commissioni sarà l'altro punto. Un terzo è cercare anche di incrociare la domanda e l'offerta delle cosiddette badanti, cioè gli assistenti familiari, che spesso ovviamente sono una risorsa per le famiglie, e cercare appunto di far emergere dal lavoro nero questa parte, che è una parte enorme, ed è per questo che abbiamo fatto questo accordo con i sindacati in maniera particolare, e quindi anche trovando magari delle forme con le agenzie che forniscono le assistenti domiciliari di calmieramento dei prezzi. Infine una parte che sarà dedicata anche alla manutenzione domestica, che è quella un po' più difficile da mettere in piedi, ma anche quella molto stimolante, che può creare anche una economia, come dire, del territorio, la famosa silver economy che si può organizzare sul territorio, data la grande quantità di anziani, che vorrebbero essere dei servizi proprio per l'attivazione di manutenzioni, di pulizie presso la casa, insomma un grosso investimento proprio a favore delle persone che hanno in casa le persone anziane, in servizi e non in trasferimenti monetari, quindi attraverso servizi che noi possiamo dare alle persone. Cercheremo anche di naturalmente introdurre, diciamo, delle fasce di reddito per far sì che le persone che hanno meno possibilità possano usufruire anche di tutto questo. È un salto concettuale anche nella politica per gli anziani, perché il comune comincia a essere il regista di tutti questi servizi, fa una funzione di orientamento, di garanzia, ma anche di regolazione del mercato.